Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Angelo Loi, regista del documentario Nel tempo di Cesare, al cinema da lunedì 27 gennaio 2025. Ben trovato. Grazie, bentrovati a voi. A parte Cos'hai raccontato? che ho raccontato un pezzo della mia vita, perché io ho seguito due famiglie di pescatori di anguille del Tevere dal 99, quindi diciamo sono 25 anni con queste due famiglie, naturalmente con grandi trasformazioni, cambiamenti, tutto un po' quello che succedeva sopra nella città a Roma si rispecchiava poi su queste due situazioni di galleggianti ormeggiati sotto al ponte del Grande Raccordo Anulare a sud di Roma, dove io nel 95 conobbi per la prima volta i Rosci e i Ciccioli, queste due famiglie, due coppie di fratelli, pescatori professionali di anguille, quindi pescatori veri, non erano solo fiumaroli per hobby, ma erano fiumaroli per necessità. Come nasce questo documentario? Il documentario nasce parallelo al cambiamento della mia professione. Io facevo il biologo, ho fatto il biologo fino al 2000, però l'incontro con queste due famiglie è stato un po' significativo da questo punto di vista. Io poi avevo cominciato a lavorare un po' nel cinema con Emanuele Crialese negli Stati Uniti, ma era un po' cominciava ad arrivarmi questa passione, e parlando con delle persone, ma anche confrontandomi con i Rosci e i Ciccioni, insomma, mi sembrava molto giusto, importante, interessante cominciare a fare un lavoro su di loro. Nel 99 ho cominciato queste riprese, prima in video per fare una serie di appunti, ma poi in pellicola con l'aiuto di un'amica direttrice della fotografia che si chiama Danae Lon, e abbiamo girato questo materiale in pellicola a cavallo tra il 99 e il 2002. Dopodiché per me era un po' conclusa la storia, conclusa nel senso che avevo dato un po' un senso, era un piccolo documentario tendenzialmente antropologico, però insomma io ero anche molto alle prime armi, quindi era quello che mi sentivo di fare in quegli anni. Ma questa storia poi è andata avanti, perché io parallelamente sono partito, ho fatto dei lavori in Africa, eccetera, ma 10 anni dopo sono stato contattato da uno dei Ciccioni, da Franco, che era molto malato, e lui mi scrisse un SMS. Mi disse: amico, vieni, porta la videocamera. E Franco mi ha tirato dentro di nuovo a questa epopea dei pescatori di anguille. Quindi ho seguito Franco nel suo percorso verso la fine, e però contemporaneamente ho cominciato a tornare al fiume in maniera molto più sistematica, e dal 2012 fino al 2024 ho continuato a seguire le vicende di queste famiglie. Poi naturalmente ho conosciuto altri personaggi che hanno cominciato a frequentare il fiume, e soprattutto un pescatore del Bangladesh che si chiama Anwar, che ha preso un po' in mano la pesca professionale del Tevere. Come lo hai costruito questo documentario? Costruito è una parola grossa. Diciamo che a un certo punto di questo percorso ho capito che dovevo scriverlo, e questo è stato un passaggio fondamentale, perché io ho accumulato una gran quantità di materiale lavorando sul tempo, perché poi sul fiume non succede quasi niente, la vita scorre uguale a se stessa di giorno in giorno, quindi bisogna cercare di fare un lavoro narrativo molto più esteso, molto più ampio, cioè aspettare che le cose succedano, avere la pazienza del pescatore, facendo un parallelo anche con la loro vita. Quella pazienza che ti permette poi di esserci magari nei momenti importanti, negli snodi narrativi importanti. E quindi la costruzione è avvenuta dapprima a sentimento, cercando di portare e di trasporre le emozioni, di raccontare le emozioni che anch'io provavo stando con loro. E poi invece c'è stato un livello di scrittura più impegnativo, che mi ha consentito poi di vincere il premio Solinas, quindi trovare anche un produttore, e da lì è partita la macchina produttiva e soprattutto è partito il montaggio vero e proprio. Io avevo fatto dei tentativi di montaggio, ma un po' grossolani, poi ero troppo dentro la storia, quindi avevo montato delle versioni in cui non si capiva niente sostanzialmente, pensando che ci fossero delle suggestioni particolari. In realtà la gente dopo mezz'ora diceva: sì, ma chi sono i rosci, chi sono i ciccioni, insomma è un problema. E grazie all'intervento del produttore poi ci siamo potuti permettere un montatore, Shervin, che è stato lui che insieme a me ha costruito poi effettivamente la storia, quindi la narrazione poi si è sviluppata in montaggio a partire da quello che era stato scritto. Che esperienza è stata per te? L'esperienza è continua, nel senso che io continuo ad andare al film, e purtroppo è un documentario dove ci sono molte morti, perché necessariamente in 25 anni succedono delle cose e succede anche questo. Però insomma, Cesare, grande sopravvissuto di tutta la storia insieme a Anwar al Bangladesh, continuano a stare lì, quindi per me la storia non è finita, finito il film, ma è un'esperienza che è iniziata e continuerà. È un'amicizia, è una frequentazione abituale, è una frequentazione di uno spazio di Roma che mi riconcilia con la città, perché io penso sempre che questa città, nella sua violenza, nella sua aggressività, nel suo perenne cantiere, è una città che ti sfianca, no? E invece ci sono degli interstizi, delle situazioni a volte che tu trovi, che intravedi, che ti riconciliano con la tua città. Ecco, quello per me continua a essere un luogo che mi riconcilia con Roma, e quindi è chiaro che lo continuo a frequentare a prescindere dal fatto che non sto più a rompergli le scatole con la cinepresa in mano. Che distribuzione sarà? Per adesso noi abbiamo una data a Milano, una data a Torino e una a Troisi di Roma, sono degli eventi, e dopo ci sono vari pensieri. Il produttore, distributore Alessandro Borrelli sta cercando di capire come distribuirlo al meglio. Si pensa anche di fare un piccolo tour di proiezioni nei comuni lungo il corso del Tevere, che mi pare un'idea molto bella, originale e anche molto sensata. Dopodiché, chiaramente, se andrà bene anche in sala questi giorni, magari ci saranno delle repliche, ci sarà una distribuzione più organica. Però ecco, col documentario si va, credo, sempre un po' a tentativi. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito della Sarraz Pictures. Il documentario Nel tempo di Cesare al cinema del lunedì 27 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Angelo Loi. Alla prossima! Grazie a voi e a presto! Con Sonia Calligaro di Incipit Film per presentare il film Family Therapy di Sonia Prosens al cinema da martedì 28 gennaio 2025. Ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito Federico. Grazie. Presentiamo questo film. Di cosa si parla? Il film Family Therapy è una satira visionaria e commovente che mette a nudo la vita di una famiglia apparentemente perfetta che vive in questa bolla, in una casa stupenda, in mezzo al bosco, isolata dal mondo esterno. E questa bolla in cui vivono viene messa alla prova e scoppia nel momento in cui arriva un giovane estraneo, Julian, che poi si scopre essere il figlio avuto da un precedente matrimonio del padre di famiglia. E quindi l'arrivo di Julian è un fenomeno scatenante che farà aprire gli occhi a questa famiglia, e il mondo esterno vediamo che si introduce nella loro bolla di perfezione e rivelerà ai nostri protagonisti tutte le loro paure più profonde, i loro difetti, i loro sogni e i loro rapporti, che si scopre essere profondamente disfunzionali. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? Sicuramente abbiamo apprezzato il fatto di collaborare con vari partner di produzione. La produzione vede ben 5 produttori provenienti da 5 differenti paesi: la Slovenia, che è il produttore maggioritario, poi ci siamo noi di Incipit Film Italia, che abbiamo ospitato tutte le riprese del film nella nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. C'è la Serbia, c'è la Croazia e c'è anche la Norvegia, quindi si può dire che sia un film particolarmente variegato sia dal punto di vista di culture che anche di punti di vista. È un film assolutamente riuscito bene e che abbiamo prodotto senza alcun problema. Della regista cos'altro sappiamo? La regista è una delle voci più importanti, più affermate della Slovenia. È al suo terzo lungometraggio con Family Therapy, e i suoi precedenti film, History of Love e The Tree, sono stati candidati, come lo è stato Family Therapy, nella categoria miglior film internazionale agli Oscar. Quindi tutti e tre i film della regista sono stati scelti dalla Slovenia per rappresentare il paese agli Oscar. E lei è una regista molto molto visionaria e molto molto artistica, quindi in ogni suo film troviamo molti elementi artistici che fanno particolarmente riflettere lo spettatore, ma anche ha una serie di partner con cui lavora sempre che fanno sì che i suoi film siano sempre di altissimo livello e molto apprezzati dalla critica. Che percorso ha avuto il film tra festival e uscite in altri paesi? Il film è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso giugno al Tribeca Film Festival, dove è stato accolto molto bene sia dalla critica che dal pubblico americano. Ha avuto un grosso successo in America e non ce l'aspettavamo assolutamente perché è un film europeo. Poi ci siamo spostati in Europa, è stato presentato al Sarajevo Film Festival, il festival più importante di tutti i Balcani, e ciò ci ha reso molto orgogliosi, dove il film ha vinto anche il CK Award, che è un premio che viene dato al miglior film art house, e ciò gli conferisce la possibilità di essere presentato in un ciclo di sale d'essai in tutta Europa che fanno parte appunto di questo circuito CK, una cosa che appunto ci ha resi altrettanto orgogliosi. Poi è stato presentato in Norvegia, come ho detto prima, i paesi di coproduzione. E la scorsa settimana abbiamo avuto il grandissimo piacere di portare il film in anteprima italiana al Trieste Film Festival. Che uscita sarà? Sarà un'uscita molto ricca, si procederà per tutto il mese di febbraio e si andrà anche un po' a marzo. Partiamo da Trieste, che è la città appunto che l'ha visto presentare in anteprima, e sarà disponibile al Cinema Fellini dal 28 gennaio. In Friuli poi abbiamo il Cinema Zero di Pordenone e il Cinema Visionario di Udine dal 10 febbraio. Invece, insieme a Trieste, sarà già disponibile da oggi al Kinemax di Gorizia, e invece arriverà al Kinemax di Monfalcone dal 6 febbraio, ma sarà disponibile non solo in Friuli, ma anche in altre parti d'Italia. Lo trovate dal 30 gennaio al Cinemino di Milano, al Cinema Italia di Do Venezia, al Cinema Nuova Luce di Urbino, al Cinema Scuderie Granducali di Serravezza, alla Sala Estense di Ferrara, al Cinema Nuovo Eden di Brescia, all'Edera di Treviso e all'Orione di Bologna. Altre date sono in condizione. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Potete seguirci sulla nostra pagina Incipit Film, Facebook e Instagram. Lì troverete sempre aggiornato tutto il calendario delle proiezioni in Italia, ma potete seguire anche i canali di Emera Film, il distributore italiano del film, sempre su Instagram e su Facebook. Il film Family Therapy di Sonia Prosens al cinema da martedì 28 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sonia Calligaro di Incipit Film. Alla prossima! Grazie mille Federico per l'ospitalità e grazie a tutti, speriamo di vedervi in sala. Con Enrico Masi, regista del documentario Terra Incognita al cinema da giovedì 30 gennaio 2025, ben trovato. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questo lavoro cos'è? Quinto lungometraggio d'autore, gli autori siamo io e Stefano Migliore. Terra Incognita è il racconto di una possibile triplice via di salvezza su questo pianeta morente. Non siamo sicuri che sia proprio morente a causa dell'uomo, a causa del destino, a causa delle tecnologie che prendono il sopravvento sull'uomo, come ci ricorda l'amatissimo Al 9000. Ma in ogni caso è il nostro piccolo omaggio a Kubrick, questo film è un po' che parla di un futuro in cui la fusione atomica per i tecnocrati sarebbe la soluzione, quando in realtà potrebbe soltanto essere una delle chimere della scienza. Come nasce questo lavoro? Dopo Shelter, quindi siamo alla fine del 2018-2019, io e Stefano avevamo la necessità di confrontarci con il tema energetico, cercando di farlo con una produzione più forte, e quindi con Rai Cinema, con le regioni, abbiamo aperto il campo alla Francia e abbiamo cercato di costruire una cordata produttiva che ci concedesse l'agio di prenderci i 6 anni che ci siamo presi per concludere questo film, che poi non è stato così agiato come percorso, perché ho viaggiato forse anche troppo, forse anche in maniera insostenibile da un punto di vista ambientale, però dovevamo dire la nostra su questo dibattito di ecologia politica che si sta sviluppando e che tra alterne vicende, perché a volte ce lo dimentichiamo, cioè questo su e giù nei dibattiti, prima si parla di guerra, poi si parla di diritti e poi si parla di ecologia, sembra quasi una sorta di ricorso, no? Di riciclo dei temi da parte dell'informazione, invece i temi dovrebbero essere perpetui. Come lo avete strutturato? La scrittura è stata molto approfondita e curata insieme a un comitato scientifico, direi anche di un certo prestigio, perché abbiamo avuto la fortuna di iniziare con Franco Farinelli, professore emerito dell'Alma Mater, e di conoscere, di incontrare Serge Latouche, il nostro filosofo francese bretone, e molto amico anche dell'Italia e della decrescita, e poi la professoressa Barbara Curli dell'Università di Torino, il geografo professore Alberto Vanolo, sempre dell'Università di Torino, la collaborazione assodata con Laura Corazza, quindi tantissima scrittura per poi partire con delle vere e proprie avanscoperte, utilizzando molto anche 16 mm e sul finale del film anche 35 mm, per partire per Francia alla ricerca di questi impianti nucleari talvolta abbandonati. Anche in Germania ci sono molti impianti abbandonati e talvolta operativi, fino a raggiungere il grande impianto di fusione del sud della Francia di ITER. Poi un lungo montaggio, quasi 2 anni, circa 1 anno e mezzo concluso, con Benny Atria a Roma nella primavera del 2024. Che quadro viene fuori? Io personalmente sono molto contrario alla fissione nucleare, sicuramente per l'Italia, cioè io sposo in pieno il no del referendum post-Chernobyl degli anni Ottanta, cioè l'Italia a partire da questioni geologiche e strutturali del territorio non può avere il nucleare, e comunque abbiamo votato, quindi non è un'opinione ma è un voto della cittadinanza, quindi se si farà un referendum, purtroppo oggi c'è un'area molto diversa in cui secondo me anche mediaticamente si è ricostruito il mito della fissione, e questo è pericoloso, soprattutto per l'Italia, perché per altri paesi il discorso è molto diverso, parlo proprio a livello geologico e di stabilità, anche di stabilità politico, industriale, sociale, civile, non soltanto appunto della natura. Quindi questa è la fissione, è il mio punto di vista. Le energie rinnovabili sono molto forti, sono molto incentivate, ma stiamo parlando già da oltre 10 anni di greenwashing, quindi anche nelle rinnovabili il denaro, il capitalismo imperversa. La fusione invece è un altro argomento, come dicevamo è una possibile chimera, è qualcosa di enorme, è un potere gigantesco che sembrerebbe risolutivo, ma anche lì c'è una questione egemonica, chi detiene la fusione e chi può raggiungerla, quindi anche nella fusione c'è questo discorso, però nelle energie poi alla fine vince quel discorso che è sì, ma dobbiamo tutti consumare, quindi il nucleare è più pulito di altri. No, questa è una frase fatta molto semplice, molto banale, e quindi l'unica cosa che possiamo fare come società è approfondire e ascoltare le centinaia, se non migliaia, di professori delle grandi università europee del mondo che si occupano di questo tema. La nostra è un'opera d'arte che fa da tramite tra il mondo scientifico e il mondo lirico, quindi noi siamo così dei trasportatori. Che tipo di circuitazione avete pensato? Dopo qualche festival all'estero dobbiamo ancora cominciare, e abbiamo una distribuzione, Caucaso è anche distributore e in collaborazione con varie realtà, e quindi sarà in tutta Italia con delle piccole teniture. A Roma arriva il 18 di febbraio, la prima nazionale sarà al Postmodernissimo a Perugia tra qualche giorno, quindi nelle principali cineteche, sale d'Italia, cercheremo di accompagnare il film. Purtroppo ho superato quella fase della vita in cui uno vuole essere sempre fuori e sempre in giro, così preferisco fare poche presentazioni molto curate, e quindi invitiamo tutti i compagni e le compagne a Roma al Cinema Farnese il 18 per una bella serata in collaborazione con Fuori Norma. Tutti i riferimenti web per saperne di più? È già uscito anche sulla Film Commission del Piemonte qualche informazione, c'è anche la Film Commission della Romagna e poi seguite Caucaso, che è la nostra cooperativa che da 20 anni si occupa di cinema di impegno civile. Documentario Terra Incognita al cinema da giovedì 30 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Enrico Masi. Alla prossima! Grazie a voi, buon pomeriggio! Con Serena Porta, regista del documentario L'Ulivo e il Baobab, al cinema da giovedì 30 gennaio 2025, ben trovata. Buongiorno, Federico, grazie. Cosa hai raccontato? In questo documentario raccontiamo, come un po' ci dice il nostro titolo, di due alberi importanti che sono l'ulivo e il Baobab, simboli di due continenti che si incontrano in questo racconto di 60 minuti. Come nasce il progetto? Il progetto nasce da una ricerca accademica sviluppata dal ricercatore Simone Grassi insieme ad altri ricercatori per il British Museum per creare una testimonianza visiva di Baobab in Kenya. Simone arriva da noi in Dakar, incontra Corrado, il produttore, e insieme decidono di buttare giù un soggetto che poi diventa un trattamento per unire questa sua ricerca accademica sul Baobab a quella che è anche il racconto dell'ulivo, e così l'incontro fra questi due alberi, ma anche fra questi due continenti che sono uniti da un tragico destino che sta portando comunque lentamente a scomparire, e quindi sia ricerca ma anche testimonianze voler salvaguardare questi due alberi di simbolo. Come lo hai costruito il documentario? Il documentario è stato costruito, come dicevo, comunque con una presenza abbastanza importante di Corrado, che sia il produttore che l'autore del documentario, all'interno, diciamo, del progetto. E c'è stata tantissima ricerca sul territorio. Ovviamente noi da pugliesi conosciamo molto bene il territorio, che poi è diventato protagonista della parte legata all'ulivo, però la parte quella africana è stata comunque, diciamo, una ricerca importante. Siamo partiti dal Kenya per poi spostarci e lavorare tanto anche in Senegal. Il Senegal, abbiamo scoperto infatti una nazione molto molto legata a quello che il Baobab, tanto è vero che è il simbolo proprio della bandiera nazionale, e quindi abbiamo raccontato questi due territori. Tantissimi sopralluoghi e tantissimo tempo passato lì, anche sopralluoghi girati, incontro diretto con abitanti di villaggi piuttosto che con studiosi. Che ne viene fuori? Abbiamo affrontato il racconto di questi due alberi a capitoli. Sicuramente ciò che viene fuori è un legame che racconta comunque di secoli e di territorio. Ne viene fuori sicuramente un'attenzione da parte di chi vive più vicino agli alberi, ma comunque anche, diciamo, a livello di opinione pubblica. In questo momento comunque c'è un risveglio a livello di sostenibilità ambientale, a livello di rapporto con la natura. E quindi partiamo da degli elementi negativi per poi comunque cercare di riconnetterci all'albero. Quindi comunque abbiamo cercato di affrontare il tema in maniera molto molto positiva. Qual è il tuo percorso cinematografico che ti ha portato fino a qui? Io vengo da due documentari, uno sempre girato nel continente africano che si chiama Il Tocco dello Sciamano, è girato tra Kenya e Marocco, e qualcosina anche girato qui in Puglia, che racconta proprio di questa scoperta, diciamo, di questi uomini e di queste donne che col sacro, con la religione e con il contatto con la natura riescono a curare lo spirito ma anche il corpo. E dopo questo documentario ho affrontato il tema dei social media attraverso il racconto di tre good influencers, quindi tre ragazzi che riescono a utilizzare social per promuovere dei messaggi negativi, andando un po' ad abbattere quelli che sono i wall che invece i social, diciamo, ci impongono, diciamo, da ripetere sempre lo stesso tipo di prodotto. Anche questo documentario è stato girato un po' in giro per il mondo. Uno dei tre influencers è proprio Nicolo Govoni, che con Stile Rice ha una scuola a Nairobi, quindi comunque vengo da tre progetti, diciamo, il terzo progetto è girato tra Italia e Africa, quindi diciamo, sto cercando, ecco, di lavorare su queste tematiche. L'Ulivo e il Baobab, che percorso avrà? Abbiamo fatto una premiere internazionale al Festival Europeo di Lecce, qui abbiamo avuto una menzione speciale da Cinecittà News come miglior documentario. Usciamo in sala e continueremo a proporlo per festival, ma il documentario è anche disponibile per eventi di mattine con le scuole, piuttosto che per eventi da organizzare con associazioni culturali, perché crediamo molto nel potere divulgativo di questo prodotto, quindi vogliamo creare rete partendo dal documentario e continuare a parlare di queste tematiche. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? I social media della Draca Cinema. Il documentario L'Ulivo e il Baobab al cinema da giovedì 30 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Serena Porta. Alla prossima! Grazie Federico, alla prossima. Arrivederci. Con Antonietta De Lillo, ideatrice della rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia, a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025, ben trovata. Ben trovata a te e sono pronta per questa nuova avventura. Non ho mai fatto una rassegna, sono contenta e non sono da sola in questa avventura, ma sono con degli ottimi curatori. Mi piace ricordarli tutti, che sono Gina Annunziata, Paola Passano, Veronica Flora, Antonio Pezzuto e Peppe Gorrone. Che caratteristiche ha questa rassegna? Questa rassegna ha una caratteristica che proprio è mia personale, cioè ho detto a tutti, io innanzitutto, prima di una regista, prima di un'autrice, mi sento uno spettatore e quindi ha proprio l'idea di mettersi in platea e capire che cosa mi piacerebbe vedere. È una rassegna molto eterogenea perché ci sono film hollywoodiani, film della storia del cinema, ci sono documentari, ci sono cortometraggi e la rassegna apre con flow per i ragazzi e per gli studenti perché ci sono 3 mattinate, è già tutto pieno e noi siamo molto contenti, e chiude con flow per il pubblico serale e sono 3 settimane, mercoledì, giovedì e venerdì. Tra i film che maggiormente ho curiosità di vedere grandi c'è Max Mon Amour, che non vedo da molto tempo e soprattutto forse non l'ho mai visto grande. Apre il mercoledì serale con The Animal Kingdom, che è un film francese che ha avuto un gran successo in Francia ma in Italia si è visto poco. Poi abbiamo The Challenger di Yuri Ankarani, poi c'è La Mosca e anche lì mi piace l'idea di far vedere quasi dei classici in proiezione. Poi invece per le mattinate ci abbiamo 3 titoli, oltre il pluripremiato Flo, abbiamo Gallina in fuga e Il mio amico robot. Abbiamo Bresson per quanto riguarda il film più storico che verrà presentato, poi Gunda e 3 cortometraggi, molti realizzati nell'ambito del film partecipato L'uomo e la bestia, il workshop di fare un film, tra questi c'è Io ti aspetto, c'è Bayou e poi c'è L'uccello imbroglione che è stato sempre realizzato nell'ambito dei nostri workshop e che già ha vinto un premio al Person. Insomma, un programma che non risparmia i generi, anche perché io dico sempre che non mi importa se un film è hollywoodiano, è un piccolo film, mi importano le storie. Qui le storie sono secondo me tutte avvincenti, trattano tutti argomenti importanti della nostra società e poi vorrei che fosse un momento dove riflettere su questo rapporto tra l'uomo e la bestia, perché un po' gli animali sono i nostri più vicini simili, ma anche noi siamo animali, quindi è un punto di vista esterno e interno che può raccontarci molto della nostra società. Quanti sono nel complesso i titoli che saranno presentati? Sono 25, le serate, di solito ci sta un cortometraggio o anche un mediometraggio, l'unico, anzi mio film, che è appunto Il signor Rockefeller, e poi le proiezioni sono tutte anticipate da un'introduzione dei curatori o dei vari ospiti che ci sono, e inoltre abbiamo un inedito assoluto fatto da Andrea Morabito, è una specie di inchiesta reportage sulle vele, ma questa volta vista attraverso gli attivisti e l'associazione LAV, che si è occupata e si è preoccupata di fare degli interventi durante il recente sgombro delle vele, perché oltre agli umani c'era una vera e propria colonia di gatti e animali che rimanevano senza dimora, e quindi sarà presentato questo il 7 febbraio. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? sul sito del Cineteatro La Perla, sul sito e sui social di Mare Chiaro Film, sui nostri partner. La rassegna è stata supportata finanziariamente dal Comune di Napoli ed è patrocinata dall'Università Federico II e l'Accademia di Belle Arti, e ovviamente c'è anche la Film Commission che appoggia questa rassegna, e poi ci siamo tutti noi, quindi anche sui miei social. L'ingresso è gratuito e poi chissà, perché non farla girare anche a Roma, a Milano e negli altri città? Insomma, non so se esiste già in Italia un esperimento così, ma a me piace sempre un po' immaginare, e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato e collaborato a realizzare questa rassegna, in primis la resistente Mare Chiaro Film. Rassegna cinematografica L'Uomo e la Bestia a Napoli al Cineteatro La Perla di Bagnoli dal 29 gennaio al 14 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Antonietta De Lillo. Alla prossima! Un saluto a tutti voi e grazie. Buone cose e buona visione. Ciao! Con Francesco Fei, regista del documentario Pellizza, pittore da Volpedo, al cinema il 4 e 5 febbraio 2025, ben trovato. Ciao, ciao, ciao a tutti. Cos'è questo lavoro? È un documentario, forse più appropriatamente detto docufiction, dedicato a questo pittore, Pellizza da Volpedo, conosciuto fondamentalmente per il pittore del Quarto Stato, che è uno dei quasi più famosi forse del mondo, che però al tempo stesso l'ha relegato in un ruolo abbastanza sconosciuto nella storia dell'arte, in quanto Pellizza in realtà è un grandissimo pittore. Per tutto l'arco della sua vita ha fatto dei dipinti meravigliosi, però è stato condizionato dalla fama di questo quadro che ha un po' schiacciato tutto il resto della sua attività pittorica. Perciò questo documentario vuole rendere omaggio e dare la possibilità agli appassionati d'arte di conoscere e incontrare questo grandissimo artista, che secondo me è veramente un artista a livello mondiale. Come è partito il progetto? È partito perché in realtà sono appassionato di pittura divisionista, della pittura appunto di questa particolare pittura italiana di fine dell'Ottocento. Avevo già realizzato un documentario su Segantini e sinceramente subito dopo finito Segantini mi sarebbe piaciuto anche raccontare la storia di Pellizza, che peraltro era anche un suo amico e comunque con cui condivideva anche moltissime idee rispetto all'arte. Ci è voluto del tempo, ci sono voluti che gli astri si allineassero, nel senso che fondamentalmente il progetto è stato reso possibile dall'interesse di questa associazione culturale Metz Percorsi d'Arte con sede a Novara, che sono dei collezionisti esperti di fine Ottocento italiano, appunto, che hanno deciso di investire un budget per far sì che la storia di Pellizza venisse conosciuta da più possibile persone. Dopodiché ci è venuta a ruota la Film Commission Piemonte, ci ha dato un sostegno importante e via, si è fatto questo film, che è fatto con grandissima passione, perché non è un lavoro su commissione, nasce proprio dalla volontà espressiva e narrativa di raccontare una vita umana così particolare, sfortunata ma altamente grandiosa dal punto di vista artistico e anche umano, direi. Come lo hai costruito? Come è strutturato? Sai, i documentari d'arte di tipo divulgativo hanno bene o male degli schemi, degli appuntamenti fissi, gli interventi degli specialisti, le interviste, un po' di racconto biografico. Diciamo che abbiamo provato all'interno comunque di una griglia espressiva abbastanza standard, che è quella dei documentari divulgativi dedicati agli artisti, di cercare di essere comunque personali. Il racconto è molto intimo, dobbiamo tanto chiaramente all'interpretazione di Fabrizio Bentivoglio, che ha letto e interpreta il viaggiatore alla scoperta di Pellizza dentro lo studio di Pellizza, che ancora esiste a Volpedo, in questo piccolo paesino del Piemonte. E perciò alla fine secondo me il film è toccante, non è solo divulgativo, ha comunque un'anima spero più possibile vicina al sentimento dell'artista. Il Festival di Roma è andato molto bene, le recensioni sono positive, dai, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Quali sono stati i tuoi interlocutori? Inevitabilmente quando affronti un artista devi prima di tutto confrontarti con i massimi esperti della materia, e noi abbiamo avuto come punto di riferimento la dottoressa Aurora Scotti, che è la principale studiosa, la depositaria della storia di Pellizza, che all'inizio in maniera un po' spaventata, perché chiaramente aveva paura che potessimo travisare o modificare la storia del pittore, si è poi completamente dimostrata disponibile, ha aperto le porte degli archivi del pittore e ci ha dato una consulenza storica fondamentale. Dopo

all'interno del carcere di San Michele tra i tanti detenuti che passavano dall'aula. Mi aveva colpito questo, all'epoca poco più che sessantenne, che mostrava sempre particolare entusiasmo, era il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare, era sempre molto partecipe, assertivo, e questa cosa mi aveva colpito tanto che credevo fosse un detenuto prossimo alla scarcerazione. Poi sono andato su Google, ho fatto una ricerca e mi sono reso conto di avere di fronte un pezzo del gangsterismo italiano. Come hai deciso di realizzarne un documentario? Dopo il corso, che ha avuto come coronamento un altro piccolo documentario, Voci di Dentro, disponibile su YouTube Italia e prodotto da Intesa San Paolo, io e Mario abbiamo iniziato a scriverci delle lettere, come si faceva una volta, e poi ho iniziato ad andare a trovarlo, abbiamo parlato questa sala colloqui fredda d'inverno e caldissima d'estate, volta dopo volta, scambio dopo scambio, in maniere diverse evidentemente il mio lavoro e la sua storia hanno fatto sì che nascesse l'idea per un soggetto, e quindi abbiamo poi deciso di trasformare questo soggetto in un documentario vero e proprio. Com'è stato lavorarci? Lavorare in carcere è complicatissimo, la preproduzione è lunga, bisogna chiedere, come ovvio, un sacco di permessi, non si può lasciare nulla al caso, quindi è difficile, perché se uno della troupe banalmente si ammala qualche giorno prima non può essere di far entrare un nuovo equipaggiamento, non so, una lente piuttosto che un'altra, non si può, bisogna fare una lista di tutto quello che entra, tutto quello che esce molto tempo prima, e quindi in questo senso è stato difficile proprio lato pratico. Per quel che riguarda invece la lunga intervista che abbiamo fatto a Mario, direi che è andata bene, perché la conoscenza pregressa aveva messo lui a suo agio e me nella condizione di fare le domande che poi sono le stesse che gli avevo fatto a camera spenta prima. Su quali elementi hai voluto focalizzarti? Abbiamo cercato di raccontare in questi 40 anni folli fuori dalla legge le tappe salienti, mi vengono a mente appunto i primi furti, le prime rapine, il periodo di latitanza, il 1986 che è segnato dalla rivolta a Porto Azzurro sull'isola d'Elba, per il quale abbiamo intervistato anche Mario Tuti che aveva condotto con lui questa rivolta, e poi il recupero negli anni 90 attraverso il teatro, attraverso l'incontro poi dopo con la pittura grazie a Francesco Bianco, l'ex brigatista che aveva condiviso con lui il carcere a Cuneo, e la speranza di recuperare la persona, e poi nel 2015, come dicevo prima, il ritorno in seguito a un fatto grave, un omicidio. Come lo hai articolato? Come è strutturato? Il documentario segue un ordine lineare, cronologico, abbiamo cercato di coinvolgere lo spettatore attraverso una narrazione non frammentata, ma come ti dicevo cronologica, partendo dall'inizio e arrivando all'epilogo, ai giorni nostri. Che circuitazione avete pensato per il lavoro? Attualmente il documentario è visibile su Amazon Prime Video, è dal 10 gennaio in piattaforma. In parallelo Cristiano Nania di Associac si occuperà di distribuirlo nei festival italiani, piccoli, medio piccoli, speriamo di portarlo in diverse sale in giro per il nostro paese, e a partire da fine mese, il 28 gennaio, ci sarà una prima proiezione qui ad Alessandria, dove il film è stato girato. Ci sono anche altri spazi web per saperne di più? Si può andare su Facebook o su Instagram, Stanwood Studio, che è la nostra casa di produzione, e lì piano piano aggiorniamo sempre. Il documentario Mario Rossi, di comune solo il nome. Un saluto e un ringraziamento al regista Lucio Laugelli. Alla prossima! Grazie a voi, alla prossima! Con Camilla Salvatore, regista del documentario Il Capitone, in programmazione a Roma, al Cinema Greenwich, all'interno della rassegna Solo di martedì, 4 febbraio 2025. Ben trovata! Ciao, grazie mille! Cosa racconta il tuo film? Allora, il mio film racconta una storia d'amore, amori forse assolutamente non convenzionali, amori di famiglia, amori di amici, ovviamente. E sicuramente poi anche come l'esperienza, che a volte è forgiata dalla sofferenza, può essere in realtà una bussola per compassione e umanità. Come nasce tutto? Nasce dall'incontro con una delle persone più importanti della mia vita, Vanessa, che in quel periodo aveva iniziato il suo percorso di transizione di riassegnazione di genere. In realtà questo è stato soltanto lo sfondo della nostra incredibile esperienza vicine. Penso che sia una delle persone che mi ha ispirato di più, mi ha insegnato di più anche della mia vita e delle mie certezze, dei miei punti di riferimento. Come hai deciso di strutturarlo? Allora, questa è una domanda molto interessante, secondo me. Io incontro Alessa nel 2020 e, partendo da questa amicizia, a un certo punto mi rendo conto che condividiamo tanto e che sono fortemente ispirata a raccontare una storia che però porti con sé anche cose di me. Di conseguenza ho cercato di scrivere con lei, con sua madre e con Cio, la nostra cara amica coinvolta nel film, ciascuna delle scene, di modo che si sentissero parte della costruzione e perché si sentissero al sicuro. Come forse non tutti sanno, ma le persone trans spesso hanno difficoltà a sentirsi a loro agio di essere rappresentate, ma soprattutto anche io non sono una grande fan della dinamica di potere del, insomma, imporre agli altri una telecamera o il mio modo di vedere le cose. Ero assolutamente dell'idea che avremmo dovuto costruirlo insieme in un modo che le facesse sentire viste e rappresentate. E abbiamo scritto tutto e abbiamo girato in 2 settimane come fosse una finzione, una cosa che poi in realtà non era stata letteralmente sceneggiata, ma soltanto improvvisata, come se fosse teatro. Con interviste? Conversazioni, più che interviste, e conversazioni fra noi, e con canti, balli, danze, e momenti vissuti, che però insomma erano stati scelti, concordati, ma non nel senso di messi in scena, semplicemente come, e poi mi piacerebbe ci fosse questa parte di me. Che circuitazione hai pensato per questo lavoro? Beh, al momento abbiamo iniziato da pochissimo la distribuzione, c'è stato un primo screening a Milano, al Filmmaker Festival, e adesso insomma sono partita un po' con una distribuzione interna al paese di produzione, vediamo. Mi piacerebbe molto riuscire a portare in Europa, insomma, la sua premiera internazionale, innanzitutto. Ci racconti anche un po' qual è il tuo percorso cinematografico? Sì, mi fa sorridere pensare a un percorso cinematografico. Io ho studiato arte, ma in realtà faccio documentari da tanti, tanti anni, dal 2015. E è più uno strumento di indagine sull'umanità per me e anche su me stessa. Ho sempre lavorato sul Sud Italia perché sono della provincia di Napoli, perché ha segnato fortemente la mia esistenza, l'appartenenza a quei contesti, e c'è stato tanto negli anni che ho voluto indagare e capire, no? Il documentario è stato uno strumento importante per me. Quindi molto imparato sul campo facendo, poi come percorso di studio ho studiato arte a Milano, poi a Londra, dove adesso ancora sono vivo. E sì, per adesso molta vita vissuta, molto, molto storia di arte, molto storia per strada. La scelta del titolo? La scelta del titolo arriva dalla lingua napoletana, perché il capitone nel folklore e anche nella smorfia rappresenta qualcosa di elusivo, di ambiguo e anche fortemente sessuale, connotato sessualmente. Non sempre visto come una cosa positiva, no? E qui c'è un parallelo con la lingua francese rispetto alle anguille. Capitone è la femmina dell'anguilla, che insomma è considerata un animale prelibato nella cucina napoletana, e che è più grande dell'anguilla, insomma ha una taglia notevolmente più grande di quella dell'anguilla. Di conseguenza si è giocato molto su questa ambiguità anche interna alla declinazione della parola, perché capitone si declina al maschile ma si riferisce sempre all'animale di sesso femminile, e quindi c'è un po' una serie di layer, no, di stratificazioni, di significati, che però sono tutti ambigui, legati a questo serpente marino, e mi sembrava adeguato. E nel documentario su cosa hai voluto centrare l'attenzione? Io ho voluto centrare l'attenzione sull'umanizzazione di ciò che purtroppo è considerato troppo esotico dal mio punto di vista. La sofferenza degli altri e certi temi che sembrano macroscopici in realtà non lo sono per niente. E il fatto di allontanare la sofferenza o le brutture, alle volte senza volerci neanche identificare col mostro, non mi piace, non è vero, non è reale. Quindi il mio tentativo con questa storia era riportare a un livello orizzontale, umano, vicino, persone che vengono raccontate quasi come se fossero fuori dalla normalità, fuori dalla abnormali, non so come dire, o forse supernaturali, non lo so. Non è così, non è così. È una cosa di tutti i giorni, la diversità. È davanti a noi, è intorno a noi, è nella nostra casa. Bisogna avere solo occhi per guardarla e anche per realizzare che non c'è veramente tanta, non siamo veramente così diversi. È soltanto demonizzazione o esotizzazione di qualche cosa che per partito preso non si vuole comprendere. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sicuramente sul mio sito internet e poi cerco di aggiornare il mio Instagram più spesso per mantenere aggiornate le persone che seguono il film. Il documentario Il Capitone, in proiezione a Roma, al Cinema Greenwich, all'interno della rassegna Solo di martedì, 4 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Camilla Salvatore. Alla prossima! Grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.